Così come lo studio dell'energia atomica portò allo sviluppo della bomba nucleare, perfino Zuckerberg, per quanto malvagio, quando inventò Facebook, non poteva immaginare cosa sarebbe successo sul suo social network. Quando muore uno famoso. Ipotizziamo la morte di una celebrità a caso, una figura controversa, su cui la storia non ha ancora espresso un giudizio chiaro. Ansa, Milano, 23 settembre, morto Juan, il pupazzo di Bim Bum Bam. Un personaggio che ha segnato la storia di questo paese con luci e ombre. Stalliere ad Arcore nel 1980. Star della TV e beniamino dei più piccoli nel 1984. Regista occulto della discesa in campo di Silvio Berlusconi ed eminenza grigia di Forza Italia fino al 2001. Come reagirà la rete alla sua morte? Oh, è morto Juan. Do l'hai letto? Hanno riaperto sticazzi.com. Oh, come sei rude? A me un po' mi dispiace. Beh, comunque ora scatta il protocollo in caso di morte di celebrità. Spegni tutto, hop! Aspetta un attimo, finisco di scaricare The Killing 3x02. Sai che devi allontanarti da ogni apparecchio elettronico per un periodo di quarantena prima che sia troppo tardi. Sì. Nota bene, per tutelare la privacy degli utenti di Facebook e Twitter, i loro avatar saranno sostituiti dai personaggi di Street Fighter 2 a scopo pedagogico. Dalsim. Addio Juan, un esempio di dignità come non ce ne sono più. Insegna agli angeli a far passare i pomeriggi senza droghe e masturbazione. Gail. Sono distrutto. Juan era uno di famiglia, un altro eroe di quell'Italia che non c'è più. Chun-Li. Preferirei che fosse morto mio padre. Ma a me sta cosa che tutti si disperano anche se non si erano mai inculati de striscio risulta un po' irritante. Una sensazione inedita. E diglielo, no? No, dai, non mi va ad essere petulante. Alla fine sono dei coglioni innocui, sti cazzi. Pavido vigliacco, parli come le democrazie europee quando Coso ha invaso la Polonia nel 39. Tutti affari vaghi e poi... Ma tu dicevi di spegnere proprio... Prima! A questo serviva il protocollo. Occhio non vede, cuore non duole. Ma ora che hai letto devi commentare. Sta scolpito nella tavola del cacacazzi che Mosè dieta puffo quattro occhi. Vabbè, ma scrivo una cosa morigerata, zero aggressività. Non vi sembra esagerato usare questi toni da lutto in famiglia? Esiste una scala del dolore di facile uso che vi allego. Potreste cortesemente scegliere il registro adeguato? Sti cazzi. Rammarico. Dispiacere. Tristezza. Dolore. Disperazione. Rammarico. Ecco, circa qui direi. Là, mandato. Ah, mi sento già meglio. Onda. Stavolta, caro Zero Calcare, il tuo cinismo è davvero fuori luogo. Mi hai deluso. Il mio cinismo? Sono io quello cinico che invito a esprimersi in modo sobrio? O te che scrivi come se fossi disperato, intanto chissà che stai a fa? Tesoro, portategli a de parmigiana de nonno, dopo in spiaggia se morimo de fame. Arrivo mo, scrivo un tweet per quello che è morto e vengo. D'immenso anonimo de fregna, ma poetico. Mr. Bison. Che ne sai tu di come stanno le altre persone? Io sono veramente triste. Triste di cosa? L'avevi visto due volte in TV. Solo tre persone per me hanno diritto ad essere tristi. For, il pupazzo di Rete 4. Era più di un'amicizia, ma negli anni Ottanta era ancora un tabù molto forte. Bat Roberto, la spalla della vita. Ciao Juan, muori giovane, che caro agli dèi. Erminio Scrociapolli, il suo manovratore. Ogni giorno infilavo il braccio in quell'anfratto umido e caldo. Un incubo che se n'è andato finalmente. Il mio lato tollerante avrà per semplicità le fattezze del celebre illuminista francese Voltaire. Credo che tu stia esagerando, Monsieur Calcare. Ognuno può dire la sua. Non sono d'accordo con la tua idea, ma morirei affinché tu possa esprimerla. Studi dell'Organizzazione Mondiale della Sanità hanno provato che questa frase ha fatto più vittime dell'influenza spagnola che decimò l'Europa nel 1919. Forse il franzoso ha ragione. Forse ho perso la pazienza. Sagat. Oggi non c'è proprio nulla di cui scherzare. Oggi è un giorno triste. Hashtag addio Juan. Allora devi mettere una webcam, una cazzo di webcam che ti inquadra tutto il giorno e mi dimostri che davvero tu oggi ne stai tutto il giorno in cameretta a piangere. E se vedo un sorriso, quanto è vero, io ti vengo a bruciare a casa. Dai, metti la webcam, dai, mettila. Non lasciare che la collera ti domini. Calca stare attento, sul tuo viso è comparso il marcio della casata dei Lannister. Succede quando ti piglia il delirio di onnipotenza e vieni posseduta dallo spirito di Joffrey, il re bambino di Game of Thrones, tirannico e crudele. D'altronde, se fai un fio con tuo fratello, non te puoi lamentare che te esce capriccioso. Fatti i cazzi tuoi, sozza bestia, o infilzerò il tuo guscio su una picca. La verità è che c'è bisogno di nuovi strumenti. La giustizia ha le mani legate di fronte a queste perversioni moderne. Ok, la mia storica avversione per le forze dell'ordine mi impedisce di invocare l'intervento della polizia, ma non quello di una milizia. Ci mostri la sua libreria. Senza gesti inconsulti. La milizia di difesa popolare contro i necrosocial. Controlli capillari, casa per casa, nulla resterà impunito! Lei ha espresso dolore tramite un emoticon triste per la morte di José Saramago, ma in casa sua non c'è nemmeno un suo libro. Una volta ho letto una citazione di Fabio Volo che lo nominava per sbaglio. Il popolo ha emesso la sentenza. Se è un cantante, devi sapere la tracklist di tutti i dischi. E se è un attore, devi aver visto... Tu non sei così calcare, torna in te. Tu. Eccolo il vostro eroe illuminista. Sputateli tutti, poi che è colpa sua se oggi abbiamo voglia. Sangue, morte, vendetta, decapitazione di suoceri. Wow, ripigliati e guarda pure chi ha scritto. Amico cinghiale. Non importa la destinazione, ma il viaggio fatto insieme. Ciao, Juan. No, tu cuoque, amico mio. Ah, Wachinghia, scusa se te chiamo, ma me dici a te che cazzo te ne è mai fregato de Juan? Te a 8 anni stavi in fissa col corpo grosso. Sui social network il dolore fa scopazzi. La ghiandola del lutto rilascia dei ferormoni che attiziano in legge e scienza, mi devi sta sul pezzo, calca. Oggi si scopa così, non c'è spazio per la nostalgia del medioevo sessuale, gli anni 90. Che dici, pare po' profondo qua la frase del viaggio? L'ho trovata su pendolariingrifati.com, un sito d'annunci per ritrovare i pischelle di cui ti innamori in metro. Calzava, sì? No? A metafora del viaggio? Sì? Ma che sta a fare le mute, sì? La vera presa di coscienza avviene quando capisci che non stai lottando contro un social network, ma contro la complessità della natura umana. Io te lo dico, quel cinghiale ha vinto! Alzo le mani, chapeau! Signori, abbiamo un vincitore! Dovevi spegnere tutto e seguire il protocollo sin dall'inizio. L'ha scritto un uomo molto saggio, che infatti ha campato 100 anni. Una complessità fatta di contraddizioni contro le quali non v'è gloria. Solo ulcera e gastrite, staci. Oh, è morto Elmore Leonard, cazzo. Vorrei scrivere una cosa, dici che posso? Cioè, alla fine, io ho tutti i libri di Leonard, Cioè, ne posso interrogare, ho letti tutti. Eppure ho dato 5 stelline su anobi.com. Una frase sola, piccola piccola. E certo, mi vuole scrivere una frase. Ci scriverei un pamphlet, trattato della fascia come il culo. Non ti giustificare, cazzo. Il re fa come cazzo gli pare. Oggi mangio un pan di stelle, domani impalo chi mangia i pan di stelle. La coerenza è un legaccio del pensiero debole.